Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Subito partiremo con la proposta che ha fatto anche molto discutere. C'è stato uno stop arrivato dal Ministero dell'Economia. Mi riferisco alla proposta del Ministro Brunetta. Diamo 500 euro ai giovani e poi però facciamoli uscire di casa. Al di là della praticabilità di questa proposta da un punto di vista dei conti pubblici, il tema però a nostro avviso c'è tutto e già altre volte ce ne siamo occupati, anche perché tutte le ricerche più recenti sulla cosiddetta mobilità sociale di questo paese mostrano un paese bloccato in cui non solo i giovani tendono più a fare il lavoro dei padri rispetto a 20-30 anni fa, ma escono anche di casa meno o più tardi rispetto a 20-30 anni fa, quindi un paese bloccato che fa anche dei passi da gambero, ed è un tema che ci sta molto a cuore. Due le scuole di pensiero, lo dico subito, poi ne parleremo con i nostri ospiti. C'è chi dice questo è un problema economico o prettamente economico, gli stipendi in termini di potere d'acquisto reale dei giovani di adesso sono più bassi di quelli in media di 20 anni fa, 25 anni fa. E c'è chi dice no, attenzione, c'è un problema anche culturale, nessuno nega il problema economico, c'è un problema anche culturale. Negli ultimi 20-30 anni si sono fatti dei passi indietro, da lì la definizione di bamboccioni del ministro Padoa-Schioppa, e si sono fatti dei passi indietro, si è creato un nuovo patto all'interno della famiglia per cui il giovane può restare in casa fino a tarda età perché di fatto gode di ampie libertà e ampie autonomie. Quindi c'è stata una, in qualche modo, una regressione su questo, ma più dovuta a sedersi culturalmente dato che non a una difficoltà economica. Di questo parleremo in apertura, anche perché tutti i dati, e così concludo per ora, mostrano un'Italia in cui obiettivamente le percentuali sono stratosferiche. Cioè noi abbiamo il 63% dei giovani che dai 25 ai 34 anni vivono ancora con i genitori. Ora, va bene il 15% della Gran Bretagna paese, ma in Germania il 17%, in Francia il 24%, nella stessa Spagna, che culturalmente insomma è abbastanza simile a noi, solo il 40%. Ci può stare anche qualche errore, alcuni giovani che possono da un punto di vista statistico risiedere nell'abitazione dei genitori, ma magari vivere per motivi di studio in altre parti. Però insomma 64% è tantissimo, è più del doppio di qualunque media europea, ed è, secondo alcuni, ripeto, anche la dimostrazione di una società bloccata nei suoi meccanismi di mobilità intergenerazionale. Poi parleremo della Fiat, i conti Fiat sono stati diffusi, il titolo in borsa, così andiamo anche alla pagina di mercati, subisce quella che è una giornata complessivamente negativa per quello che riguarda tutta la borsa, però la subisce più della media del mercato. Perché lo dico? Perché il titolo Fiat è il peggiore in questo momento sul listino, meno 3,70%, con una borsa che perde lo 0,80, male anche Geox, meno 2,60, Mondadori meno 2,1, come Exore l'Automatica, ma insomma Fiat è nettamente un punto e mezzo sotto anche agli altri titoli. Bene Ansaldo STS, più 2,4, Bulgari più 2,3, Popolare di Milano più 1,3, Mediaset più 1,1, Parmalat più 0,60, mezzo punto percentuale di rialzo di Mediolanum, e lo 0,3 quello di Fondiaria Sai. Fiat dunque, e infine concluderemo con i bonus, le banche, le tasse sulle esposizioni finanziarie. Ne abbiamo parlato con il premio Nobel dell'economia Becker, che era qua, era a Milano nei giorni scorsi per un convegno organizzato dalla Banca Popolare di Milano, Gary Becker, e su questo le idee sono abbastanza, diciamo, non ortodosse da parte del premio Nobel dell'economia, se non ricordo male nel 2002 vinse il premio all'economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Di questi temi, ossia dei bonus ai manager delle banche e delle tasse sull'acquisizione di rischio bancario, abbiamo sentito su questo anche il numero della Popolare di Milano, Ponzellini. Rapidamente le altre notizie in breve. Mi correggo subito, Gary Becker vinse il premio Nobel nel 1992, non nel 2002, quindi 10 anni prima. È una notizia di servizio, è da oggi online, come già vi hanno ricordato i nostri GR, alcuni programmi, il nuovo sito, la nuova versione del sito di Radio 24, sempre www.radio24.it, ha un insieme di funzioni potenziate rispetto al passato. Lo dico a molti ascoltatori che ascoltano programmi in podcast delle volte, insomma è possibile scaricare l'intera programmazione per fasce orarie e tutto l'archivio MP3 di Radio 24, e poi ci sono delle novità anche sugli highlights che arricchiscono l'offerta radio via web e poi podcast come sempre. Ancora sui mercati invece, euro quota 1,41,38, petrolio a $74 oggi. Crollano le case vendute negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre, il dato è un dato di gran lunga peggiore rispetto a tutte le stime, le vendite di case già esistenti, quindi non di case nuove, sono crollate del quasi 17%, 16,7%. Anche le previsioni peggiori non andavano oltre un 9% di calo. Va detto però che l'America è invariata in questo momento, il Nasdaq pure, Dow Jones pure, Parigi meno 1%, Francoforte meno 1,1%, Londra meno 0,6%. E Goldman Sachs metterà un tetto massimo di 1 milione di sterline, cioè 1,6 milioni di dollari, siamo a 1,2 milioni di euro, agli stipendi e ai bonus dei propri partner in Inghilterra. Però interesserà circa 100 persone che lavorano a Londra, e chiaramente il milione di sterline è da intendersi come singolo bonus e non come tutti i bonus, ci mancherebbe. Magari dovrebbe riguardare 100 persone che lavorano a Londra, questo come conseguenza di svariati attacchi dell'opinione pubblica e anche della politica americana a Goldman Sachs, che hanno poi aperto la stura a tutta l'iniziativa contro i bonus e contro i rischi finanziari, perché insomma l'anno scorso la banca nell'ultimo trimestre dell'anno scorso aveva già messo da parte 520 milioni di dollari, aveva messo da parte praticamente 1,6 miliardi di bonus, però è stato obbligata poi a destinare di questi soldi circa 500 milioni in beneficenza. Ricordo però anche che nel 2009 Goldman Sachs ha distribuito 16 miliardi di dollari di bonus. L'economia europea, come sempre dall'economia internazionale scendiamo a quella europea. Gli ordini all'industria vanno abbastanza bene nel mese di novembre, più 2,7% rispetto a ottobre, e praticamente l'incremento italiano è tra i migliori in assoluto. L'Italia infatti ha fatto un più 4,5% a novembre rispetto a ottobre, la media europea è più 2,7%. Gli incrementi maggiori sono stati quelli di Austria, più 10% negli ordini attivi all'industria, Estonia più 7%, Grecia più 7%. I cali peggiori: Ungheria meno 9,6, Irlanda meno 4,4 e Bulgaria meno 4. Cresce anche la Germania e la Spagna, leggermente più della media, più 3,2 la Germania quanto ordinativi industriali, ripeto, novembre rispetto a ottobre, e Spagna più 2,7. Se frena la Francia, meno 0,4%. Brutta giornata per il colosso della telefonia svedese Ericsson. Crollano gli utili nell'ultimo trimestre dell'anno, quindi del 2009, meno 92%, praticamente l'utile è sceso a 30 milioni di euro, di gran lunga peggiore di molti report e attese degli analisti, che stimavano almeno un utile di 4-5 volte superiore, e i ricavi sono scesi del 13%. Tant'è che Ericsson ha annunciato che eliminerà altri 1.500 posti di lavoro, già ha previsto 5.000 licenziamenti, adesso ne taglierà altri 1.500 perché deve elevare l'obiettivo di risparmio, portandolo a quasi 2 miliardi, a 1,5 miliardi di euro contro il miliardo precedentemente stimato. Complessivamente appunto saranno 6.500 i dipendenti di Ericsson che perderanno il lavoro. Secondo il principale, uno dei principali quotidiani asiatici giapponese, Yomiuri Shimbun, è il gruppo Volkswagen Suzuki, il nuovo leader mondiale dell'auto nel 2009, che ha superato infatti la Toyota. Volkswagen Suzuki ha venduto 8 milioni e 600 mila auto a livello mondiale da questa alleanza tedesco-nipponica, la Toyota invece 7 milioni e 800 mila. E così introduciamo il tema di Fiat, poi avremo un approfondimento. La perdita netta comunque nel 2009 è stata di 800 milioni di euro e include 600 milioni derivanti da oneri atipici. Ancora il dividendo sarà così distribuito: 17 centesimi di euro per azione ordinaria, pari a 186 milioni di euro, 31 centesimi di euro per le azioni privilegiate e 32 centesimi per le azioni di risparmio. Buone le previsioni sul 2010, attesi ricavi in crescita per Fiat tra il 3 e il 6%. Il 2010 dovrebbe essere l'anno dell'utile per il gruppo Fiat, e dovrebbe essere comunque inutile, ma l'indebitamento netto che si è ridotto a 4 miliardi e 4 a fine 2009, era 5 miliardi e 9 a fine 2008, con una liquidità che è molto aumentata, è migliore degli obiettivi, quindi si presume che anche nel 2010 l'indebitamento dovrebbe scendere più di quanto non previsto negli obiettivi. Ultima notizia, poi passiamo al tema di apertura. Smentisce il gruppo Benetton, o per lo meglio la società Sintonia, di aver avviato iniziative o mandati per un progetto di fusione tra Atlantia, Gemina e Abertis. Ricorderete che nel 2006 si tentò di fondere Autostrade con il corrispettivo spagnolo Abertis, operazione bloccata anche dal governo Prodi, e appunto viene smentita l'ipotesi di un accordo di un asse con Benetton per arrivare a una fusione tra Autostrade e Abertis. E allora, vediamo il tema di apertura. Brunetta, il ministro Brunetta ha fatto discutere, prima dicendo per legge i giovani dovrebbero essere obbligati a 18 anni a uscire di casa, poi dicendo adesso diamo 500 euro e poi mandiamoli fuori casa. Ripeto, al di là delle reazioni politiche e del blocco che è arrivato dal Ministero dell'Economia, il tema a nostro avviso c'è tutto. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, già lo scorso 17 gennaio il ministro Brunetta aveva proposto una legge appunto per obbligare i giovani a uscire di casa a 18 anni. La presa di posizione che trovate sui giornali è la conseguenza, il commento a una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha costretto un artigiano trentino a pagare gli alimenti alla figlia 32enne fuori corso da 8 anni, avuta da una moglie precedente da cui aveva divorziato. Il papà aveva smesso di pagare il mantenimento quando lei aveva 29 anni perché non si decideva a laurearsi. E da lì il commento del ministro Brunetta, sia sui 500 euro che poi anche sull'Italia come paese di ipocriti. Sentiamo questi due passaggi diversi. Basterebbe eliminare le pensioni di anzianità, cioè quelle pensioni che mandano in pensione i genitori a 55 anni, e ci sarebbero tutte le risorse per dare non 200 euro, ma per dare 500 euro ad ogni giovane che si mette da solo. Sorrido perché questo è un paese di ipocriti. Quando un signore, io, che queste cose le conosce, dice, beh, guardate, fuori di ipocrisia, il patto generazionale è spendere meno per il cattivo welfare dei padri e dare di più ai figli. Me ne hanno detti di tutti i colori, che sono un delinquente. E allora, mentre ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Stefano Zamagni, che insegna economia e politica all'Università di Bologna e alla Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie anche alla professoressa Irene Tinagli, che insegna a Madrid all'Università Carlo III, editorialista per La Stampa e autrice di un rapporto che portammo in trasmissione proprio sul paese bloccato, l'ascensore sociale bloccato. Buonasera anche a lei, professoressa. Buonasera. il rapporto di Italia Futura. Dicevo, insomma, lo spunto non è nuovo, molti di voi andranno con la memoria al 2007, 4 ottobre, il ministro dell'economia, allora si chiamava Tommaso Padoa-Schioppa, nel spiegare il perché di un aiuto di 1000 euro previsto in finanziaria per i giovani che prendevano un appartamento in locazione, così si espresse. Una misura interessante per i giovani è quella di, come io dico, di mandare i bamboccioni fuori di casa, cioè incentivare l'uscita di casa da parte dei giovani che adesso restano fino a età inverosimili con i genitori, quindi non crescono mai, non si sposano, non si rendono autonomi. È un'idea, secondo me, importante. Allora, visto che il professor Zamagni ha anche degli impegni, diciamo, universitari, vorrei iniziare da lui, perché se ho ben capito, poi leggeremo anche un po' di statistiche, per carità, già dicevo che da noi i giovani sono 63 su 100 che tra i 25 e i 34 anni vivono ancora in casa, in Germania sono 17 su 100, in Gran Bretagna 15, in Francia 24, in Spagna 39. La tendenza è un po' in aumento in tutta Europa, però non nascondiamoci dietro un dito. Qui interessa la tendenza italiana. La percentuale di ultra trentenni, professor Zamagni, che vivono con i genitori è triplicata negli ultimi 25 anni. Io sono uscito di casa 18 anni, 22 anni fa, e si pensava che nell'arco di 20 anni questa sarebbe stata, sul modello europeo, insomma, la magna passa, la maggior parte degli studenti. Si è andati indietro, a passo di gambero, sono triplicati quelli che stanno a casa dopo i 30 anni. E allora ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice il motivo è economico, più soldi, il potere d'acquisto del lavoratore giovane adesso è più basso rispetto a 22 anni fa, e c'è chi dice no, attenzione, qui c'è un problema anche culturale, si sono seduti i giovani, c'è stato un patto dentro la famiglia per cui tu hai molta libertà in casa e ti conviene tutto sommato spendere quei soldi, che non sono tanti, che guadagni, per altri acquisti. Lei a quale delle due scuole appartiene, professor Zamagni? Ma c'è del vero in entrambe. Sicuramente il fattore economico è importante, ma è importante però perché se focalizziamo l'attenzione sulla questione del lavoro, di cui dirò tra un minuto, ma anche l'altra dimensione del problema è rilevante, quella propriamente culturale. Il fatto è che una lunga stagione di individualismo esasperato ha fatto credere soprattutto ai giovani che la libertà sia solo la libertà da e la libertà di. E quindi la mancanza di concepire la libertà in un modo più completo, intesa cioè come libertà per un progetto di vita, eccetera. Questo è il motivo per cui i giovani parlano di cultura dei diritti e mai di doveri o di responsabilità. Eppure il pensiero liberale da sempre ha sostenuto il binomio diritto, nel senso di libertà di agire, associato alla responsabilità delle conseguenze che ne derivano. Quindi io non sottolineerei solo la dimensione economica, che però è rilevante, e adesso rivolgo la seguente riflessione molto brevemente. Il problema è che i giovani oggi si trovano razionati sul lavoro, ecco perché a mo' di provocazione intellettuale, anziché parlare di reddito minimo, parlerei di lavoro minimo. Il fatto è che chi conosce il mondo giovanile sa che non ci sono occasioni lavorative sia per i giovani universitari, ma o per quelli che hanno lasciato da poco l'università o la scuola superiore, eccetera. Cioè non ci sono quelle situazioni intermedie, prima ancora del cosiddetto lavoro definitivo d'adulto, che consenta al giovane di ottenere con una certa probabilità un reddito che gli consente poi di uscire di casa e di affrontare le sfide della vita, eccetera. Ecco perché ritengo che una proposta credibile sia quella di adottare in Italia quello che stanno facendo in Francia, con successi enormi in Francia, in Belgio, in Germania e in Inghilterra, con l'introduzione dei cosiddetti buoni lavoro, cioè dire un meccanismo, quelli in Francia si chiamano CESU, che vuol dire Chèque Emploi Solidaire Service Universel, in Belgio li chiamano T3 Service, i nomi sono diversi ma la sostanza è la stessa. Bisogna triangolare il bisogno delle famiglie a basso reddito di avere dei servizi alla persona e dei servizi alla casa in condizioni di non prezzi di mercato, per intendersi, se non se lo potrebbero permettere, di consentire ai giovani di svolgere attività lavorative remunerate decentemente e all'ente pubblico, segnatamente lo Stato, di far emergere il lavoro nero. Perché quando si dicono queste cose bisogna sempre ricordarsi che l'Italia è il paese del lavoro nero. E guarda caso c'è un collegamento causale tra il lavoro nero, i giovani che restano in casa e la mancanza di attività. Ora, questi progetti sono fattibili, anche perché la finanziaria per il 2010 per la prima volta lo consente, anche se non provvede alla bisogna, però almeno da un punto di vista giuridico lo consente. E allora non resta forse che alla società civile organizzata, penso ad esempio a alcune fondazioni che localmente a mo' di sperimentazione stanno tentando di avviare progetti locali di attuazione dei buoni lavoro che hanno lo scopo di raggiungere l'obiettivo. Beh, di questo infatti ci sono anche sugli affitti, per esempio in Spagna c'è la renta d'emancipazione, anche in altre realtà abbiamo agevolazioni per i giovani, le giovani coppie, gli studenti in Francia, come ricordava, l'affitto in Spagna, gli assegni per le coppie che hanno figli in Germania, da noi il nulla. E cioè la famiglia in Italia, l'abbiamo detto già altre volte, è sempre importante come tema etico, la famiglia futura, la famiglia, ma mai come tema economico. Detto ciò, professor Zamagni, poi la saluto perché so che deve tornare in consiglio, però secondo lei, il tema economico mi è chiarissimo, c'è una correlazione culturale tra un paese in cui, per carità, in tutta Europa si sta assistendo ai figli boomerang, come si chiamano, cioè quelli che escono e poi tornano in casa. Da noi nemmeno parte boomerang spesso, cioè non escono, punto. Però il fatto che sia triplicato il numero di trentenni che abitano ancora con i genitori in 20 anni e il fatto che l'Italia sia il paese dove è più forte la correlazione tra il reddito del padre e il reddito del figlio, e che vuol dire un paese bloccato, le due cose secondo lei si uniscono, si tengono oppure sono due fenomeni diversi? No, si tengono, così come questo aiuta a spiegare a livello causale il basso numero dei matrimoni. Cioè, se i giovani non si sposano, è chiaro che restano in casa. Voglio dire, se invece ci fosse una maggiore incentivazione alla vita familiare, come avviene negli altri paesi, è ovvio che due che si sposano possono stare in casa, questo va da sé. Ed è altrettanto ovvio che se noi non decliniamo il principio di libertà con il principio di responsabilità, insomma, l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale dice che ogni cittadino ha il dovere di contribuire, eccetera eccetera, cioè al bene comune della comunità a cui appartiene. No, questo però non lo diciamo mai, anche dei progetti educativi io non lo vedo mai scritto, non lo vedo mai declinato. Cioè la giustizia non è solo quella commutativa e quella distributiva di cui tutti parlano, c'è anche la giustizia contributiva di cui in Italia non si parla mai. Elinor Ostrom ha ottenuto il premio Nobel dell'economia pochi mesi fa esattamente per avere basato tutti i suoi scritti sul principio della giustizia contributiva, che non sostituisce ma si aggiunge a quella commutativa e a quella distributiva. Ecco perché se noi non recuperiamo queste radici culturali e non correggiamo le storture che negli ultimi 2-3 decenni si sono realizzate per opera anche di, forse in buona fede, ma di centri intellettuali, starei per dire deviati culturalmente ovviamente, non riusciremo a mettere in mano, perché i temi come la libertà e come la giustizia possiedono entrambi tre dimensioni, non due, come finora è accaduto. Grazie molto. Grazie a lei, professor Zamagni. Grazie. Allora, professoressa Irene Tinagli, io adesso non mi piace contrapporre i due ospiti, però Zamagni dice sostanzialmente sì, c'è un problema economico, e professor Zamagni studia da sempre i sistemi di welfare, la povertà e i meno abbienti, però c'è anche un problema culturale, cioè qui è una generazione cresciuta con minor senso del dovere e più diritti, in cui insomma non viene ritenuto un dovere uscire di casa e cercare in qualche modo di farcela, cioè viene riconosciuto un diritto quando hai le condizioni migliori. Prima del metodo della pubblicità, poi lascio ampio spazio, vorrei capire se è d'accordo o no, oppure se invece le dice no, attenzione, qui la variabile è solo prettamente economica. No, non voglio dire che è solo e prettamente economica, però secondo me anche alla base di molti comportamenti che noi cataloghiamo come culturali, alla fine spesso ci sono delle molle che bene o male sono riconducibili a fattori economici e a delle politiche pubbliche, badiamo bene, anche che spingono in certe direzioni e incentivano certi comportamenti piuttosto che altri, per cui certi comportamenti poi vengono supportati, si diffondono e diventano poi culturalmente accettati, però non credo che si possa dire che solo che i giovani sono i responsabili perché è cambiata la cultura. Come diceva giustamente il professor Zamagni, c'è più bisogno di una cultura, diciamo una progettualità per, di andare via per fare qualcosa, per seguire un progetto. Se però queste condizioni diventano difficili o se non impossibili, chiaramente voglio dire l'essere umano è un essere razionale, per quanto ora vada di moda tutte le teorie sull'irrazionalità economica, ma alla fine insomma non è che siamo fessi, uno si fa i calcoli e agisce di conseguenza, e lui infatti, proprio il professor Zamagni, enfatizzava le conseguenze che hanno sui comportamenti delle persone, sistemi di giustizia, di libertà, e quindi i giovani secondo me reagiscono in maniera anche molto razionale, più di quanto noi pensiamo, a delle condizioni economiche e istituzionali in cui si trovano a vivere. Sì, non a caso dei giovani che escono di casa, uno su due lo fa per il matrimonio, uno su tre per esigenze di indipendenza, poi l'11% per convivenza e il 9% per lavoro, per studio solo il 5,5%. Dopo il metro e la pubblicità, io dico a chi scrive al 349-238-6666, stiamo cercando di toccare anche molti dei temi, chiaramente si dividono in due messaggi, come spesso avviene, c'è chi sottolinea stipendi bassi, costo della vita alto, affitti altissimi, che volete, scrivono molti, provateci voi a uscire di casa con 1200 euro al mese, e avete indubbiamente ragione, e altri dicono ma qui c'è una cultura insomma in cui quando lo disse Padoa-Schioppa lo criticarono, poi adesso dice Brunetta nessuno lo critica, oddio qualche critica l'ha ricevuta anche Brunetta, qui c'è anche una comodità oltre che una necessità nello stare in casa con i genitori, perché comunque è più difficile stringere la cinghia quando sei devi pagare anche l'affitto che non quando l'affitto te lo pagano i tuoi. Vorrei tornare su questo dopo le informazioni meteo e la pubblicità, anche per parlare, così rispondo a un ennesimo invito degli sms, di politiche concrete, perché poi qua in Italia mai una volta che si copia quello che succede all'estero, né nella lotta all'evasione né nelle politiche di welfare, insomma all'estero ci sono varie iniziative che permettono ai giovani di avere una convenienza anche economica nell'uscire di casa, fermo restando che culturalmente dovrebbe essere un dovere, non solo un diritto. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti di voi ci hanno suggerito giustamente uno spunto. Professoressa Tinagli, prima di raccontare cosa succede all'estero, beh, c'era qualcuno che del tema dei giovani in casa a lungo, troppo a lungo, si era occupato già nel 2001. Ah, non me ne ricordo mai. Ha 26 o 27 anni. Brutta cosa la vecchiaia, sono proprio svanita. Me ne dimentico sempre. 28. Di già. Tu lo trovi normale che non abbia ancora mai lasciato il nido? E abita ancora con voi? Sta ancora studiando. Oggi a 30 anni non sei arrivato. Se non hai come minimo un master, ti ritrovi disoccupato. Non è vero. Tutte le statistiche dicono il contrario. Ma se ci sono 3 milioni di disoccupati? Scienze politiche, la normale superiore, insegnante di filosofia, il giapponese, laurea in cinese. Se è disoccupato lui, allora il resto dell'umanità che cosa deve fare? Discute la tesi a giugno e assume l'incarico a Pechino a settembre. Però tra il dire e il fare, senza contare che si trova tutto lavato e stirato, me l'hai detto 100 volte. No, tenghi tutto quello che vuoi, ma questo no. Non mi puoi chiedere una cosa simile. Mamma. No, no, no. Mamma. No, no. Tuo padre la prenderà malissimo. Ma io non sono fatto per vivere da solo. Non so cucinare, non so fare le pulizie, le bollette non le capisco. E poi questa casa è piccola. Non sono pronto psicologicamente. Ho paura. E voi mi mancate. Fatemi tornare a casa, sennò la tesi va a rotoli. Va a rotoli tutto. Morirò, mamma. Mamma? Sì, sì, sono qui, aspetta un secondo. Dice che morirà. Sì. Basta con queste cazzate! Allora, non vi dico, beh, il film chiaramente era Tanguy, film francese del 2001, non vi dico i messaggi che stanno arrivando, addirittura c'è chi dice che qui si fa troppa retorica, ma insomma mi sembra che stiamo parlando anche di proposte concrete con due approcci un po' diversi. Moltissimi di voi fanno esempi anche qui concreti, 1600-1400 euro al mese come facevo con 1200 a uscire di casa, ho 36 anni, guadagno 1000 euro al mese, consumo 120 euro di carburante, 900 euro al mese mi restano, come faccio a uscire di casa? Voglio dire, questo è indubbiamente il tema, si cercava solo di capire se non ci fosse anche dell'altro, cioè un uscire di casa visto solo come diritto e mai come dovere sociale. Professoressa Tinagli, mi racconta cosa fanno all'estero? No, ma prima vorrei solo aggiungere una cosa, no? Perché qua è anche interessante capire poi la dimensione culturale non solo dei ragazzi che restano, ma anche di chi sta dei fuori genitori, e certo. Li giudica, no? Perché certo. A un certo punto io capisco che magari per persone come anch'io stessa, che me ne sono andata a 18 anni, magari uno può sembrare riprovevole, ma questi che vogliono stare a casa, però dobbiamo fare qualcosa per cacciarli fuori, però dobbiamo anche capire poi qual è il ruolo di uno Stato. Non è che lo Stato è il grande fratello che può decidere le scelte degli altri a prescindere. Noi dobbiamo lasciare la libertà agli individui anche di fare le loro scelte legittime di dove, con chi, quando e come vivere. Quando è che questo diventa? Noi dobbiamo renderci conto la circostanza in cui questo diventa un problema sociale, cioè per una società. Quindi quando è che è questo problema? Perché se un giovane lavora e semplicemente decide che con quello che guadagna sta bene magari a risparmiare in affitto e vivere con i suoi e questo spenderseli in altri tipi di consumi ed è felice così, non è un problema per lo Stato, perché questo spende e consuma in altre cose. Quando è che subentra il problema? Quando il giovane vive questa situazione come una limitazione allo sviluppo della propria carriera e al poter fare di più, al poter fare una propria famiglia e quindi alla crescita della comunità e dell'economia. Allora questo diventa un problema di cui lo Stato si può e si deve occupare, perché è una limitazione per la crescita dell'individuo e della società. E di questi giovani ce ne sono tanti, cioè di questi che sono costretti a fare questo tipo di scelta, a subire e si sentono quindi hanno l'impossibilità a crescere, a fare di più. In queste circostanze ci sono delle misure che si possono prendere. Queste misure non sono un salario sociale a tutti i giovani per andare via, perché questo è assurdo, cioè come replicare la logica delle pensioni assistenziali, dello Stato assistenziale indifferenziato. No, ci sono delle misure che danno un supporto a chi ha voglia di mettersi in gioco, a chi cerca di percorrere certi tipi di strade e di fare delle scelte. Quindi si parlava appunto di quali tipi di esempi, quindi si parlava dell'esempio della Spagna, per esempio, che ha fatto questi affitti di emancipazione. Cosa significa? Significa che un giovane che trova lavoro e che decide che vuole uscire da casa avrà un supporto, un assegno mensile di 200 euro per contribuire all'affitto. Questo chiaramente è legato al fatto che anche all'emersione degli affitti dal nero, perché certo. Tutto dovrà essere registrato, che già anche questo è una cosa interessante. Uno dice 200 euro chiaramente non copre. Beh, se ti metti assieme altri due compagni di appartamento arrivi già a 600 e forse a quel punto, cioè vuol dire a tre contributi da 600 e forse a quel punto l'affitto rimanente diventa più basso, no? Certo, ma appunto non è che deve sostituire o pagare completamente l'affitto, deve essere un supporto, cioè ci deve essere una corresponsabilità del giovane. In Francia ci sono aiuti per gli studenti per pagare l'affitto fino a 5.500 euro l'anno, se non ricordo male. Sì, ma poi non solo quello, ci sono poi, perché non è solo una questione degli studenti, poi ci sono tutta una serie di fasi, come si parlava prima, anche uno esce di casa molto spesso anche quando ha voglia di farsi una famiglia sua, e anche su questo fronte noi siamo assolutamente latenti da un punto di vista di misure, di supporto per la famiglia. Lì per esempio in Francia hanno delle misure assolutamente all'avanguardia, insomma molto più avanzate delle nostre, degli aiuti alle famiglie giovani con i bambini piccoli che noi ce li sogniamo, e quelle sono cose importanti, cioè, quindi non è che si dà un supporto in termini di servizi, in termini di aiuti economici a chi vuole fare lavorare e magari ha bisogno di una babysitter, ha bisogno di un asilo, certo. Ecco, queste cose. Sì, qui entriamo un po' nelle politiche per la famiglia, che è un tema anche leggermente diverso, però d'accordo con lei che invece che tante così buttato appellativi, io sono d'accordissimo con lei, professoressa, che lo Stato non debba occuparsi di quanto vuole stare a casa un giovane con i genitori. Dico anche che però se uno ha ancora 34-35 anni a casa con i genitori, secondo me, qualche, se non ci sono altri vincoli, altri obblighi, qualche problema ce l'ha e un po' di disagio ce l'ha, però è giusto che lo Stato metta le condizioni fiscali soprattutto, e senza regalare magari 500 euro si potrebbe pensare appunto a incentivi fiscali sull'abitazione, che a giudicare dalle centinaia di sms che sono arrivati al 349-238-6666 il vero problema, le spese per l'affitto. Faccio anche notare che alcuni scrivono, e a mio avviso non hanno del tutto torto, che delle volte si preferisce poter non rinunciare molto piuttosto che abitare fuori e dover rinunciare anche a altre spese, spese di lusso. Però il tema non è questo, il tema è cosa può fare lo Stato, non cosa fa l'individuo. L'individuo faccia quello che vuole. Siamo l'unico paese che non ha iniziative di questo tipo per le giovani coppie, per i giovani, per gli studenti in corso con gli studi e per i giovani lavoratori. E meno male che siamo il paese dei figli e della famiglia. Grazie professoressa Tinagli. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, commentiamo allora la borsa, poi cerchiamo di dare anche qualche risposta agli SMS che continuano ad arrivare, poi però ci sono anche altri temi, gli stipendi, per esempio gli stipendi di chi, così facciamo un bel po' di retorica e demagogia, non ha nessun problema a uscire di casa, penso ai bonus dei banchieri, però la borsa meno 0,80%, Francoforte meno 1,1%, Parigi meno 1%, Londra meno 0,80%, per quello che riguarda gli Stati Uniti, l'America adesso guadagna lo 0,3% nonostante il crollo della vendita di nuove case, a sorpresa meno 17%, Nasdaq invariato e di Fiat parleremo tra un attimo, prima però come sempre il commento con i colleghi di Radio Corriere del Sole 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Di Fiat, dicevo, parliamo tra poco, quindi andremo a spiegare il perché di questo calo del 3,7%, peggior titolo tra quelli in maggior capitalizzazione, così come Exor, meno 2,6%. Però abbiamo visto un rimbalzo della Popolare di Milano, che non ha recuperato tutto quello che ha perso, è più 1,3%. Ansaldo continua ad andare bene già da venerdì, anche oggi un 2,5%, e Bulgari, che sono i migliori, più 2,5% anche Bulgari. Ansaldo e Bulgari. Sì, per quanto riguarda Ansaldo non c'è nessuna notizia particolare, come ricordavi tu il titolo si sta mantenendo comunque sui massimi da qualche seduta, dopo qualche calo a metà della scorsa settimana il titolo ha recuperato e quindi secondo gli operatori resta un titolo, un'occasione di acquisto, resta un titolo valido che potrebbe continuare a correre, quindi il rialzo viene stato confermato anche oggi. Per quanto riguarda Bulgari invece si tratta di un rimbalzo, il titolo aveva perso oltre il 4% venerdì e oggi è stato aiutato nel recuperare terreno anche da un report positivo di Goldman Sachs che conferma l'acquisto dei titoli bulgari e ha corretto al rialzo. Mi viene target. L'orticaria, mi viene l'orticaria con il report, va bene. Mentre dicevamo BPM che anche quella ha recuperato terreno dopo aver perso molto, oltre l'11% a partire da martedì scorso quando il consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale triennale che ha un po' deluso il mercato. In questi giorni il presidente Ponzellini ha più volte rassicurato sulla bontà e poi lo sentiremo Ponzellini, perché ha fatto un'intervista proprio assieme al premio Nobel Economia che era ospite della Popolare di Milano sabato qui a Milano, un'intervista a Ponzellini proprio anche sui temi della Popolare e degli stipendi dei manager bancari. Noi andiamo avanti con i titoli invece, tra i peggiori Paolo notavo oltre a Fiat Exor Mondadori, Geox, Lottomatica meno 2%, meno 2,1% Mondadori e Geox, meno 1,80% Lottomatica, debole anche Eni meno 1,4% e poi bancari, Unicredito perde l'1%, Generali l'1,4%, il Banco Popolare meno 0,7% e Intesa meno 0,5 come Enel. Atlantia meno 0,71, qui c'è è stata la smentita diciamo di sintonia di eventuali trattative in corso con Abertis per fondere autostrade con autostrade italiane con Abertis, però quello che noto è una Telecom Italia ancora in flessione meno 1,4% Telecom. Sì, per quanto riguarda Telecom ricordiamo che il titolo aveva avuto un andamento molto volatile venerdì sulle voci di un progetto per una fusione con Telefonica attraverso la fusione tra Telco e la banca spagnola Caixa che è azionista di Telefonica. E ieri venerdì il titolo aveva guadagnato molto terreno prima poi di ripiegare sul finale dopo la smentita degli interessati, oggi comunque aveva chiuso positivo e quindi oggi sono proseguiti i realizzi, il titolo ha chiuso in calo dell'1,44%, rimane poco sopra la soglia di un euro, ha chiuso a 1,025, il mercato ovviamente continua, cerca di capire cosa ci sia di vero in questo continuo rincorrersi di voci su una possibile fusione con Telefonica, tanto che anche il ministro dello sviluppo economico Scajola ha chiesto ai vertici della società di essere informato, l'ha detto venerdì scorso, quindi anche il mercato ovviamente attende lumi su questo dossier. Ancora per quello che riguarda titoli. Eni, fanno notare gli ascoltatori, è la quinta seduta di calo consecutivo, meno 1,4%. Per carità, il prezzo del petrolio è a 73-74, ma non è che sia oscillato così tanto. Esattamente, Eni è da lunedì scorso, quindi in una settimana, ha perso oltre il 6 punti percentuali, quasi il 6,5%, si segnalava appunto nelle scorse, oggi no, ma nelle scorse sedute un calo del prezzo del petrolio. Oggi invece c'è una banca d'affari, questa volta italiana, Equitasim, che ha abbassato le stime sull'utile trimestrale dell'ultimo trimestre del 2009 per il gruppo, che sarà approvato nelle prossime settimane. Oggi è stata quindi un'occasione anche questa per vendere i titoli Eni, anche se pure per Equita il giudizio rimane hold, quindi tenere le azioni con un target di 19,2 euro, che rimane ben superiore ai 17,25 di chiusura di oggi. Del prezzo di oggi. Allora, visto che sarà il tema della prossima ora, uno dei temi della prossima ora, Fiat, poi leggeremo con calma i dati. Nel 2009 ha perso 800 milioni come perdita netta e ha distribuito dividendi per 237 milioni. Nel caso specifico vi do anche le differenze: 17 centesimi di euro per chi ha le ordinarie, 31 centesimi di euro per chi ha le privilegiate, 32 centesimi e mezzo di euro per chi ha le azioni risparmio. Come mai un calo così forte? Da quanto si è capito, da quanto riferiscono dalle sale operative, quello che un po' ha deluso, nonostante la buona notizia del ritorno al dividendo, è forse un eccesso, secondo gli analisti ovviamente, di prudenza da parte del management nel fissare gli obiettivi per il 2010. Anche sul fronte dell'indebitamento, che è molto migliorato nel 2009 a 4,4 miliardi, le stime per il 2010 continuano a parlare di un indebitamento inferiore ai 5 miliardi, lasciando quindi aperta la possibilità di un peggioramento nel corso del l'anno in corso, quindi questo ha un po' penalizzato il titolo sul finale della seduta e, come dicevi tu, è stato il peggiore del FTSE MIB, perdendo il 3,69%. Grazie Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, e chiaramente di Fiat e di altri titoli parleremo anche nella seconda ora del programma. Adesso c'è il GR, molti messaggi arrivano ancora sul tema dei giovani fuori casa. È innegabile, abbiamo cercato di dirlo, che c'è stato anche una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi dei più giovani rispetto a 20-30 anni fa, tant'è che assistiamo, anche questo l'avevamo detto però, a un aumento dei giovani che restano a casa in tutta Europa, in Gran Bretagna, in Spagna, in Svezia. Negli ultimi anni si è toccato il record, per quanto siano record molto bassi rispetto ai nostri, di permanenza dei giovani nelle case dei genitori. Sarà stato l'euro, il cambio con la lira, i tipi di lavoro più precario e più flessibile di adesso, quello che volete, però sicuramente il potere d'acquisto è più basso, ecco perché si chiedono politiche che incentivino ad uscire. Poi c'è chi scrive: ma insomma, se devo decidere di dividere l'appartamento con estranei o vivere in famiglia, beh, meglio stare in famiglia, perché dividere l'appartamento con altri, che poi c'è quello che non pulisce, quello che torna a casa di notte e ti sveglia, quello che russa, quello che si toglie le scarpe, nel frigorifero ti mangia una roba, meglio stare con i genitori. Ecco, secondo me questo è il problema culturale, invece di economico, non c'entra, l'economia qui c'entra molto poco. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Chiudiamo adesso il tema però dei giovani fuori casa. Non c'era nessuna volontà ironica nella mia affermazione di prima, quando si dice che è scomodo vivere fuori casa perché ci sono vari problemi di convivenza con gli altri inquilini che hanno i loro vizi e la loro abitudine, che si vive meglio con i genitori. Secondo me si tocca l'aspetto culturale di questo problema, che è per buona parte economico, cioè di disponibilità economica, dei redditi, degli incentivi fiscali per i giovani che esistono in altri paesi e non da noi. C'è però anche, come mi sembra abbiano riconosciuto anche i nostri ospiti prima, un elemento culturale. Da noi si dice: beh, insomma, meglio stare con i genitori che dover soffrire o sacrificarsi un po', che nulla toglie al problema vero e proprio del potere d'acquisto e delle agevolazioni inesistenti per i giovani che vogliono mettere su casa. Comunque, terzo e non ultimo tema della puntata riguarda la Fiat, i conti Fiat. Già abbiamo detto del titolo meno 3,7%, sotto i 10 euro per azione, 9,53 euro, nonostante sia tornato anche il dividendo. Allora, i conti della Fiat. Si diceva confermate le previsioni di un utile nel 2010, nel 2009 c'è stato comunque un calo e non da poco, una perdita, scusatemi, non da poco, anche se in netto miglioramento, 800 milioni. I dividendi sono distribuiti, tant'è che Fiat ha distribuito 237 milioni di euro di dividendi. L'indebitamento netto industriale scende a 4 miliardi e 4, era di quasi 6 miliardi nel 2008 e appunto si prevede che il 2010 dovrebbe essere l'anno dell'utile. Andrea Malan ha seguito la conferenza stampa di Sergio Marchionne. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa in cui Marchionne ricorda la difficoltà del 2009, fa alla fine un bilancio anche delle varie aree geografiche nel 2009. An incredibly difficult year for every market participant in the automotive sector. As we predicted, the second half of 2009 has seen. Come sentite dalla parte inglese della conferenza della conference call di Marchionne, ha detto il 2009 è un anno incredibilmente difficile per tutti i costruttori di auto. C'è stato un miglioramento nella seconda metà del 2009 per un insieme di fattori. Il primo è che è andato meglio l'intero settore automobilistico e ha visto un insieme di aggiustamenti di mercato. Tra l'altro, ha detto Marchionne, il quarto trimestre del 2009 per il settore auto è stato probabilmente uno dei migliori nella sua storia. Le vendite di Fiat sono state identiche al 2008 grazie all'andamento ottimo in Europa nella seconda parte dell'anno grazie agli incentivi, ma anche in America Latina lungo tutto l'anno. Riguardo a Chrysler, lo scorso novembre abbiamo presentato il piano industriale e confermato tutti gli obiettivi, ma di questo insomma ci siamo già occupati. We presented our plan, we confirmed those targets, the fact that by 2014. Così appunto Sergio Marchionne. La domanda è molto semplice, Andrea, almeno dovrebbe esserlo: come mai, con dati che vedono il ritorno al dividendo, la conferma che quest'anno sarà l'anno dell'utile, la riduzione di quasi 2 miliardi dell'indebitamento netto e una tenuta nelle vendite, l'abbiamo appena sentito da Marchionne, come mai il titolo perde il 3,7% e va a 9,50 euro? Beh, diciamo che guardando ai numeri dati oggi da Fiat si può solo cercare di intuirlo, e il motivo principale a mio parere è che il mercato guarda al futuro. Le attese sul 2009 sono state più o meno soddisfatte, cioè i risultati sono abbastanza in linea con le previsioni degli analisti e del mercato. Marchionne è stato abbastanza pessimista sull'andamento del mercato dell'auto nel 2010, il mercato europeo ha detto potrebbe perdere il 12% se verranno mantenuti gli incentivi, o addirittura il 16% se per esempio in Italia e in altri paesi non venissero rinnovati gli incentivi alla rottamazione. Questo porterebbe via oltre 1 milione di auto a livello europeo e costerebbe circa 200.000 auto in meno alla Fiat, con un impatto sui conti addirittura fra i 3 e i 400 milioni di euro. Quindi già questa è una grossa incertezza. È probabile che gli incentivi in Italia vengano rinnovati, ma finché il mercato non vede, diciamo, i numeri e il provvedimento del governo, ovviamente restano i punti di domanda. E gli altri settori che hanno tenuto, diciamo, sono rimasti in nero, quindi i camion, le macchine agricole, gli stessi veicoli commerciali, dovrebbero migliorare un po' quest'anno, ma nel senso di una stabilizzazione o di una lieve ripresa del mercato, quindi si parla di un più qualche percento, sicuramente molto meno del 10%, ripartendo da una base ridottissima. I camion pesanti, ha detto per esempio oggi Marchionne, hanno perso i 2/3 del fatturato nel 2009, quindi si parla di livelli molto bassi. Quest'anno il gruppo Fiat ha tirato la cinghia su tutto, quindi ha tagliato drasticamente gli investimenti, ha tagliato anche le spese amministrative, generali, di vendita. Quest'anno dovranno in qualche modo ripartire di pari passo con l'aumento della produzione e la ripresa dei mercati, ma appunto il fatto che sia ancora molto incerto quando e quanto i mercati si riprenderanno ha indotto, secondo me, una certa prudenza nella borsa. Andrea Malan, chiedo agli ascoltatori, secondo me la domanda non è del tutto sbagliata, perché un'azienda, comunque un gruppo che per quanto ridotto continua a chiudere in perdita, 900 milioni di euro, ha deciso comunque di distribuire il dividendo? Beh, diciamo che la giustificazione data da Marchionne è la seguente: l'anno scorso, cioè sui conti del 2008, i conti del 2008 si erano chiusi con un utile record, ma essendo stati approvati un anno fa, quindi all'inizio del 2009, in un periodo di totale crisi finanziaria e anche di prosciugamento delle fonti di finanziamento, si era deciso di non pagare dividendo allora. È vero che quest'anno c'è stato un rosso, in sostanza il ragionamento di Marchionne è un po': noi paghiamo un dividendo adesso che non è enorme ed è in qualche modo sulla media dei risultati tra quest'anno e l'anno scorso. Ricordiamo che nel 2008 c'era stato un utile netto di 1,7 miliardi di euro, quindi diciamo la somma dei due anni dà un po' meno di 1 miliardo. E quindi diciamo in qualche modo probabilmente anche un discorso di compenso degli azionisti, sia l'azionista di maggioranza, cioè la famiglia Agnelli, che i piccoli azionisti, ha voluto dare un segnale anche di fiducia nel futuro. Però è vero che la decisione di pagare un dividendo con una perdita comunque netta può avere in qualche modo pesato sul mercato, anche se ricordiamo che le condizioni finanziarie rispetto a un anno fa sono nettamente cambiate, non solo il netto calo dei debiti come hai ricordato tu, ma anche una posizione di liquidità superiore ai 12 miliardi di euro che serviranno nei prossimi mesi a ripagare una serie di prestiti e appunto un business che comunque nell'ultima parte del 2009 ha generato cassa. Certo, per cui dice la logica era anche il dividendo, questo è distribuire parte degli utili alla luce di quello che era stato l'anno, anche l'anno, i conti dell'anno precedente. Grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora restiamo sul tema delle banche. Prima di ascoltare l'intervista a Becker, vi farei ascoltare quanto dichiarato sabato, visto che lo ospitava la Banca Popolare di Milano, a Milano, il presidente della BPM Massimo Ponzellini, al microfono del nostro Antonio Vanuzzo, sul temi della crisi e quindi possibilità che l'Italia stia uscendo dalla crisi prima di altri e comunque prospettive economiche complessive. Io credo che già all'inizio della crisi le indicazioni che venivano dal Ministero dell'Economia e dal professor Tremonti fossero sufficientemente chiare e andassero in questa direzione. Non erano così specifiche e mirate a segmenti e settori dell'attività bancaria, in quanto si basavano di più sul fatto che bisognasse cambiare il modo di fare la banca e lasciava libertà al banchieri di comprendere e di capire il messaggio, cioè meno prodotti sofisticati, meno attività di denaro su denaro, più attività legate all'economia reale e miglior comprensione dei rischi e un generale messaggio di sobrietà al sistema. Questo messaggio, che era incluso nei provvedimenti che i vari stati avevano fatto a favore delle banche, nella realtà, soprattutto delle banche americane e anglosassoni, è stato compreso a parole, ma nei fatti hanno continuato un pochino a fare come prima e quindi hanno meritato questa ulteriore rampogna che dice: forse lo avete capito, vi abbiamo aiutati, vi aiutate, però certe politiche di retribuzione o di organizzazione o di controllo devono cambiare radicalmente. Poi c'è il settore del trading finanziario, su cui ha posto limiti severissimi. In Italia, nelle banche italiane, esiste in misura marginalissima, la nostra banca ad esempio non esiste come tante altre banche e quindi a noi tocca meno. Così appunto il presidente della Banca Popolare di Milano, e la domanda che sta posta, che poi sentiremo anche la risposta del Premier Nobel dell'Economia, è quella che riguarda invece l'iniziativa di Barack Obama nei confronti delle banche. La Casa Bianca ha messo la tassazione sui redditi da, o meglio, scusatemi, per in qualche modo disincentivare l'assunzione di rischi, una tassazione che va a colpire le banche sulla base della loro esposizione finanziaria, e sta ragionando di paletti ai bonus. Ieri, si registra anche la posizione tedesca da un lato e britannica dall'altro. Perché? Perché da un lato il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto: beh, attenzione, è importante non indebolire i nostri sforzi internazionali per garantire una migliore regolamentazione. La Germania ha deciso di ospitare a fine maggio a Berlino un summit proprio sui temi delle regole, dei paletti, delle tasse nel mondo bancario. Da Londra invece è arrivata una posizione a cui gli inglesi ci hanno mai abituato da quando è iniziata questa crisi: sono molto molto scettici anche come cultura, come storia, nell'introdurre paletti o regole più rigide. Hanno detto: vabbè, siamo scettici sul piano Obama per le banche, lo ha detto lo stesso ministro dell'economia britannico, il cancelliere dello scacchiere Alistair Darling. Le misure ipotizzate dal presidente americano non avrebbero evitato la crisi che poi abbiamo subito e rischiano di minare l'intesa internazionale raggiunta col G20, devo dire intesa molto debole, sulle regole finanziarie. Sentiamo su questo, sempre al microfono del nostro Antonio Vannuzzo, il presidente della Popolare di Milano Massimo Ponzellini. Essendo il settore su cui più profitti si facevano, ha mortificato l'andamento di borsa delle banche e quindi ha fatto cadere le borse, e la caduta delle borse si riflette moltissimo sui titoli italiani, anche perché soprattutto i fondi internazionali, che hanno difficoltà a dismettere con forti perdite le partecipazioni che hanno sui mercati internazionali, preferiscono dismettere quelle altre. Questo è un fenomeno tecnico che è chiaro. Se io sono il fondo Alfa americano, è chiaro che ho investito qualche miliardo di dollari su 3 titoli bancari americani e 150 milioni di euro sui titoli bancari europei. Se devo vendere per tenere sul titolo 150 milioni di titoli europei, faccio una minusvalenza su una parte marginale del mio portafoglio. Se vendo 150 milioni di dollari di titoli lì, abbasso, e dopo devo abbattere tutti i 3 miliardi di dollari che ho, e quindi il fondo mi va sotto. E quindi vendono le partecipazioni che sono minori e che meno impattano a livello di svalutazione del fondo su di loro. E quindi questo meccanismo sulle borse marginali si sente di più. Comunque, da quello che vediamo, ancora distante l'Europa, se mai esiste su questo tema un'Europa, dalle ipotesi e anche dalle iniziative americane. Abbiamo girato appunto la domanda al premio Nobel Gary Becker perché gli abbiamo chiesto in primo luogo se tutto rischiava di sfociare poi in un monte di parole in Europa, ma anche un po' in America, oppure ha un senso andare a colpire i bonus ai banchieri e alla comunità finanziaria e mettere anche una tassa sull'assunzione di rischi finanziari da parte delle banche. Credo che ci sia una questione reale circa la proposta di Obama di separare le attività più legate al rischio da quelle di deposito. Non sono sicuro che avrei intrapreso lo stesso percorso, ma credo sia una proposta con un certo senso. Io proporrei invece di alzare i requisiti patrimoniali delle banche, specialmente per le più grandi, quelle definite troppo grandi per fallire. Inoltre, incentiverei gli istituti a combinare le attività di deposito con quelle di investimento. Questo sarebbe il mio approccio, ma credo che Obama abbia scelto una soluzione che ha senso, anche se non penso che sia la migliore. Per ciò che riguarda i bonus, credo sia un grosso errore da parte del governo cercare di regolarli. Penso che nessun governo sia in grado di dire quanto alcuni manager dovrebbero essere pagati e in quale modo. Sono d'accordo sul fatto che alcuni bonus siano eccessivi, soprattutto in presenza di forti perdite delle società. Capisco che l'americano medio sia molto arrabbiato per la grandezza dei salari che manager molto mediocri hanno ricevuto. Dall'altro lato, però, mi chiedo quanto chi siede ora a Washington sia in grado di regolare le retribuzioni. Credo che non sia possibile, perché le pressioni politiche sono troppo grandi. Preferisco quindi che sia il mercato, piuttosto che il governo, a determinare i compensi. Spero quindi che non ci sia una stretta dei controlli sui bonus, ma credo anche che ulteriori regole siano necessarie. Controls are necessary. E poi la domanda delle domande, nel senso che insomma, non basta essere un premio Nobel per saperlo, ma insomma i rischi che vi sia il cosiddetto double dip, cioè che questa ripresa economica poi in realtà sia stata così veloce e nasconda il rischio di una nuova discesa, la doppia V come la chiamano alcuni, e la possibilità invece che tutta questa ripresa sia guidata dall'Asia, dalla Cina e dall'India. Penso che l'Asia crescerà ancora abbastanza rapidamente quest'anno, come è successo nel 2009. Credo addirittura che il progresso sarà ancora più marcato e sarà di notevole aiuto all'economia mondiale, a quella europea e americana. Non ho alcun dubbio. Penso però che anche senza il motore asiatico sarebbe possibile assistere alla ripresa negli Stati Uniti. In particolare, i dati sul PIL del quarto trimestre credo saranno piuttosto positivi e penso che il 2010 sarà un anno piuttosto buono. Magari non vedremo un boom significativo, ma il contesto sarà decisamente migliore che nel 2009, con una crescita che potrebbe superare le stime del Fondo Monetario Internazionale. No, non credo che questo scenario si verificherà, anche se vedo che ci sono alcuni rischi da non sottovalutare. In verità non penso che la ripresa sia stata rapida. Da quando è iniziata la recessione negli Stati Uniti, al giorno in cui si è avvicinata una conclusione, che credo sia avvenuta nel terzo trimestre 2009, sono passati quasi 2 anni. Una recessione lunga, dunque, e grave sotto molti aspetti. Oltre che nel settore finanziario, l'impatto è stato forte anche nel mercato del lavoro, con la disoccupazione negli Stati Uniti al 10%, un livello piuttosto alto per il mio paese. Per non parlare del PIL, arretrato per 2 trimestri. Quindi penso che la ripresa non sia stata così rapida, ma piuttosto lenta, rispetto ad altre fasi recessive vissute in passato. Per esempio, a inizio anni 80, quando c'è stata una crisi molto forte, il ritmo della ripresa lo considero moderato e credo che continuerà così anche nel 2010, anno discreto non solo per gli Stati Uniti e l'Europa, ma per l'economia mondiale nel suo complesso. Così Gary Becker, premio Nobel dell'economia nel 1992. Da Sebastiano Barisoni, da auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.